Ovviamente è straniante anche per chi ama Brecht trovarsi a presentare una nuova stagione in queste condizioni, ma credo sia anche molto istruttivo e pone questioni e domande a cui dobbiamo dare risposte. E da un certo punto di vista, questa prima tronco di stagione, poi spiegherò perché parlo di primo tronco di stagione che andiamo a presentare, rappresenta un tentativo di risposta a queste domande. Cercherò di spiegarmi meglio. Come probabilmente ricorderete, avevamo collocato la stagione 19-20 nel segno di una riflessione sulla questione della discontinuità, della svolta, della rottura, dell'innovazione, della possibilità di chiudere dei cicli per eventualmente aprirne altri, sostanzialmente mettendo in discussione il fatto che un ciclo si fosse compiuto, che il Novecento si fosse chiuso. Bye bye Novecento era con un significativo punto interrogativo, era il claim della stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Poi è arrivato febbraio, è arrivato una storia che noi tutti conosciamo e che possiamo sintetizzare con una parola che ci era sconosciuta e che ci è diventata di inquietante familiarità, lockdown, quindi uno strappo, una cesura, una vera grande cesura che ha definitivamente chiuso probabilmente quel secolo che sembrava non volere morire e ci ha scaraventato addosso la responsabilità di immaginarci un mondo nuovo. E questo è esattamente il momento che stiamo vivendo, un momento di grande responsabilità, un momento complesso, ma anche un momento che mi auguro essere incubatore di grandi energie e di grande volontà di rilancio, con una consapevolezza che quanto ci siamo lasciati alle spalle, sperando di essercelo realmente lasciato alle spalle, non venga dimenticato. Lo ricordava il Presidente in premessa, i tempi sono ancora incerti, ma al di là dell'incertezza dei tempi c'è un monito a cui dobbiamo prestare attenzione. L'emergenza che abbiamo vissuto è un'emergenza che ci parla di una fragilità, di una precarietà di un sistema e molto probabilmente per immaginarci quel futuro pieno di vita, di respiro e di contatto che speriamo di avere davanti a noi, è importante essere consapevoli di questa fragilità ed è importante cercare di dare delle risposte a questa fragilità, di trovare dei modi per abitare il mondo nuovo, per l'appunto, senza rinunciare a niente di quanto compete alla dignità e al senso forte dell'esperienza umana, ma anche essendo consapevoli dei problemi, dei limiti, dei rischi che ci sono davanti e con cui dobbiamo in qualche modo convivere o comunque a cui dobbiamo dare risposta. Nel nostro piccolo, un problema di questo genere ci siamo trovati ad affrontarlo quando, nei mesi scorsi, abbiamo cercato di disegnare la stagione che andiamo oggi a presentare. Al momento in cui il lockdown è partito, la stagione 2021 era già quasi praticamente disegnata, avevamo già in corso la riflessione sulla grafica della stagione, i programmi erano al 95% definiti. Poi abbiamo dovuto rimettere tutto in discussione e cominciare a ragionare sulle nuove condizioni che via via ci si trovava ad avere davanti, nella convinzione che come scena pubblica abbiamo il dovere di essere presenti all'interno delle nostre comunità. Questo della funzione pubblica del teatro, sia della funzione pubblica del teatro in senso lato, perché ogni teatro ha di per sé una funzione intimamente pubblica, sia della funzione pubblica che specificamente compete su quei soggetti che sono altresì soggetti con responsabilità pubblica come il nostro, credo che sia cruciale per disegnare per un verso il futuro del nostro teatro all'interno della società che ci aspetta e che vorremmo ci aspettasse, e per l'altro verso anche per disegnare il futuro della nostra società, tout court. Credo che esista un rapporto strettissimo, simbiotico, tra un teatro e una comunità, tra un teatro e la comunità che quel teatro abita e la comunità che quel teatro abita. Non penso sia possibile eludere questo tema, soprattutto in un momento di svolta, di riavvio, di rimessa in marcia. Dobbiamo interrogarci su cosa voglia dire funzione pubblica, dobbiamo interrogarci sulla nozione di servizio pubblico, dobbiamo interrogarci sulla nozione di valore pubblico, di bene comune, di rapporto, di presa in carico di una comunità in rapporto al proprio teatro e di presa in carica di una comunità da parte del teatro. Queste sono le prime riflessioni che ci hanno animato. Come abbiamo affrontato i mesi che ci stanno davanti? In primo luogo abbiamo scelto di cercare di aderire il più possibile a quegli orizzonti di progettualità che l'esperienza della pandemia, che ahimè stiamo ancora vivendo, ci costringe ad adottare. In qualche modo il rapporto con la pandemia ha cambiato il nostro orologio interiore e il nostro rapporto con il tempo, segnatamente con il futuro. Proprio da questo punto di vista la scelta è stata quella di non presentare una stagione compiuta, l'arco dell'intera stagione 2021 dall'ordinario ottobre fino a maggio, ma di limitare l'arco di presentazione della stagione alla prima parte dell'anno, da ottobre a gennaio, in modo da avere un orizzonte abbastanza fededegno delle condizioni di ricezione che gli spettacoli potranno avere. Parlo delle capienze in sala, parlo della gestione delle mascherine in sala, parlo anche della gestione degli attori in palcoscenico. Come sappiamo, il quadro dentro cui ci muoviamo è in costante movimento e quindi in gestare la programmazione da subito sull'intera stagione c'era parso avventato. Poi c'è stata un'altra seconda risposta forte, perlomeno dal nostro punto di vista, che in realtà non fa altro che consolidare una modalità di lavoro che la nostra fondazione si era già data nei mesi scorsi, nelle stagioni scorse. Mi riferisco alla volontà di incardinare la creazione teatrale per questo primo tronco di stagione essenzialmente su un nucleo artistico permanente di attori, una vera e propria compagnia stabile, un ensemble, come accade per lo più in quei teatri europei. Abbiamo pertanto allargato il nucleo della compagnia stabile che già operava nella nostra struttura, portandola da 8 a 14 unità e aggiungendo anche una quindicesima presenza con funzione di regista assistente e talvolta regista in proprio all'interno dell'operatività della compagnia. Questo passaggio è un passaggio su cui credo dobbiamo riflettere. Probabilmente questi mesi sono anche degli spazi di sperimentazione che i teatri devono, credo, cogliere per interrogarsi su cosa sarà poi il tempo del dopo. In fondo, la riforma del 2014 ci aveva cominciato a porre davanti a problemi di questo genere, non in forma cogente, ma questioni, penso al tema della percentuale di permanenza del nucleo artistico, avevano cominciato a dare indicazioni, a dare impulsi di questo genere. Abbiamo scelto di percorrerli fino in fondo, senza peraltro rinunciare anche ad innesti altri, nella convinzione che la mescidanza dei sangui, il rimescolamento delle carte, competa a quella dimensione antropologicamente carnevalesca che compete al teatro, che è fatto di commistioni, di alti e bassi che si toccano, di carne e spirito che convivono. Oltre al tema dell'ensemble permanente, che pone anche una questione, il tema dei lavoratori dello spettacolo, credo sia importante porsi radicalmente la questione dello statuto giuridico e professionale dei lavoratori dello spettacolo e di trovare un modo di riflettere su come rimmaginare o reimpostare quella precarietà cronica che pertiene ai lavoratori dello spettacolo in senso stretto, a partire da quelli che usualmente definiamo artisti, dai registi, drammaturghi, attori e quant'altro. La questione non è di poco momento da un punto di vista economico e da un punto di vista politico. Continuo a ricordare che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che i lavoratori dello spettacolo sono cittadini a tutti gli effetti, e quindi è un tema delicato quello che va affrontato. Nel solco di queste riflessioni, oltre all'orologio e oltre all'ensemble permanente, abbiamo posto in essere anche una riflessione sulle modalità di articolazione dell'offerta. Normalmente i cartelloni dei nostri teatri, è un tratto tipico del sistema teatrale italiano, vivono di una commistione di produzioni ed ospitalità, di spettacoli che un teatro fa, soprattutto un teatro nazionale come il nostro, che ha come mission prioritaria quella della produzione, e di spettacoli che accoglie, che riceve da altri soggetti produttori. Per questa prima parte di stagione abbiamo scelto di operare convintamente soltanto proponendo produzioni. La ragione di questa scelta è doppia: per certi aspetti completa la scelta fatta sull'ensemble permanente, perché notoriamente l'ensemble permanente in quelle scene d'Oltralpe di cui prima parlavamo viene a coincidere con un sistema repertoriale. Ovviamente è impensabile per il nostro sistema e per le nostre città ipotizzare un sistema repertoriale puro, ma credo sia pensabile tentare, quanto quantomeno, e poi dopo questo esperimento faremo le opportune valutazioni, tentare di ragionare su come quel metodo repertoriale possa in qualche modo adattarsi alle peculiarità e alle specificità del teatro italiano, che vive tra l'altro di un rapporto estremamente forte, da non perdersi, di relazione tra le strutture pubbliche e private, tra i grandi teatri e le compagnie, e quindi un equilibrio in questo senso va assolutamente cercato. Dall'altra parte, la scelta repertoriale è anche collegata alla necessità di confrontarsi con i problemi di circuitazione che i mesi che ci aspettano potrebbero porre. Abbiamo visto già a fine febbraio, ai primi di marzo, lo abbiamo sperimentato concretamente, come il lockdown di alcune zone del paese, tra cui c'eravamo noi, ha di fatto fatto collassare il sistema teatrale dell'intero paese, proprio in ragione del sistema di circuitazione degli spettacoli. Questa riflessione è una riflessione che si lega a un'emergenza che mi auguro ci lasceremo molto presto alle spalle, ma pone poi altre questioni su cui gli artisti più avveduti stavano cominciando a riflettere da tempo, che è il tema dell'impatto, della ricaduta ambientale dell'operatività teatrale e delle tournée, e a come reimmaginare una possibilità di operatività che si ponga quantomeno eticamente il problema non solo dei costi ma anche dell'impatto per l'appunto sul contesto. Sono queste le riflessioni che praticamente ci hanno guidato e che di fatto hanno fatto tutt'uno con l'individuazione della linea tematica, che si è venuta spontaneamente definendo in un dialogo molto fitto con tutti gli artisti che sono venuti a scegliere di salire sul nostro carro e di accompagnarci nei mesi a venire. Sono storie diversificate, sono rapporti diversi, talvolta sono artisti residenti, artisti che stabilmente collaborano con ERT, talvolta sono artisti che abbiamo incrociato o che produciamo per la prima volta, ma tutti si sono messi ugualmente in discussione e in dialogo, aiutandomi a chiarire la geografia concettuale, tematica, immaginifica dentro la quale ci muovevamo. Il tema che ci siamo trovati a identificare come nucleo generatore, come nucleo portante di tutte le creazioni che poi si sono sviluppate autonomamente, secondo proprie logiche, dentro un'assoluta libertà riconosciuta agli artisti coinvolti, è un tema che per certi aspetti ribalta specularmente quello dello scorso anno. Se lo scorso anno ci chiedevamo se il Novecento era finito, quest'anno cominciamo da una prospettiva diversa, cominciamo da una prospettiva che ci siamo lasciati alle spalle un certo mondo. Questo lasciarsi alle spalle un certo mondo ha incontrato un altro orizzonte di questioni, e qui mi rifaccio a quella funzione pubblica del teatro da cui ero partito. Una prima elementare funzione pubblica del teatro pertiene l'impegno comunitario che si incardina sul teatro. Prima si parlava di conquista di nuovi pubblici. L'allargamento della comunità è la base su cui il teatro deve operare, sull'onda di quella sorta di strana suggestione che ha accompagnato tutto il teatro del Novecento, di un teatro che si voleva e si pensava come modello e come paradigma di una società. Ma oltre alla funzione comunitaria che pertiene all'esperienza del teatro, c'è un'altra dimensione che a mio giudizio è strettamente legata alla funzione pubblica del teatro. Il fatto che il teatro essenzialmente racconta storie, le racconta anche nelle sue forme più radicalmente post-drammatiche, perché in fondo, quando un'azione si compie in scena, a quell'azione che si compie in scena, a quell'immagine che si crea in scena, l'occhio dello spettatore, la cornice che l'occhio dello spettatore traccia da sempre un rilievo paradigmatico, il valore di una histoire significative, di un punto di vista sul mondo. Raccontare una storia significa tentare di dare ordine al mondo. Mai come oggi credo ci sia bisogno di, non dico ordine, perché sarebbe veramente presuntuoso pensare che sia possibile oggi trovare un ordine, ma quantomeno di formulare delle ipotesi su quali possano essere degli ordini, quali possano essere delle tracce, quali possano essere delle rotte, con tutte le precarietà e le incertezze e le fallibilità che nel tracciare mappe e rotte ci sono. Quindi il teatro è il luogo dove si raccontano storie o metaforicamente si raccontano fiabe. Da qui l'approdo al C'era una volta che, incrociando la tematica di cui facevo cenno prima, si è capovolto in Una volta c'era. Una volta c'era è un modo per invitarci a pensare a come, per l'appunto, gestire questo snodo, questo salto che ci troviamo a fare, e a come, a partire da questo salto, pensare al futuro che ci sta davanti.